Mi piace. A cosa stai pensando? Aggiungi foto. Scrivi un messaggio. Condividi filmato. Inizia a chattare. Rispondi al messaggio. Connetti. Sono Gianluca Nicoletti. Ora Melog è ovunque. Non solo in diretta alla radio, ma online tutto il giorno su radio24.it/Melog. Resta collegato. Melog, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e replica dalle 22 alle 23. Anche sul canale 700 di Sky.